di Rospin, quello decaffeinato, è troppo grossa la grana, capito? Si intasa subito. Come ci poteva cambiare il filtro? E cosa devo fare? Cambiare il filtro ogni settimana? Ma stai scherzando, se la tocca in culo a un certo punto. Tanto a me il caffè non mi... Se vuoi andare a pigliarmi il caffè, ci porta Simone laggiù la cosa al bar e gli faccio pigliare un cappuccino, faccio prima. Io il caffè non ne bevo. Cosa vuol fare, cazzo? Con caffè decaffeinato a cambiarmi 1,50 di filtro. Capo. Vabbè. Allora, vai Gucci. Ti conveniva a te, ti conveniva la cosa, la macchinetta, almeno non si intasa mai, la capsule, la mazza, la motomia non hai più problemi. No, l'ho assaggiato quel caffè, lascia perdere, fa male quel caffè, a futti i dinni, non la futti nuda. Mi ha dato Giovanna per una settimana, a questo momento mi scende un accidente con quel caffè, ma stai scherzando? Ho dovuto pigliarmi il caso Lexotan, mezzo malato, non lo saranno, non riuscivo a calmarmi. Invece con il caffeinato, quello di Rosfin, quello puoi bere quante ne vuoi, e acqua, capito, non ti succede niente, non è che c'è caffè, già lo sai, che tu, quello blu sto parlando di quello celeste, mi. Ma hai capito, ma la macchinetta è... C'è quello che vuoi, c'è anche del caffeinato, ma neanche lo spingi le capsule di quella cosa lì. La macchinetta, quella elettrica, si chiama, modo mio si chiama, però le vendono anche dei vecchi, la vendono, ed è più pulita la cosa, non ti si intasa mai, non hai problemi, capito? Ci butti le capsule dentro la mongrete con la sciuccanda e a posto. L'ho usato per fare entrare il cialde, ho dovuto tagliarle, capito, di diametro, io ce ne infilavo all'interno e facevo il caffè di caffinato, perché cosa? Per me scusa ma cosa si intende? Non veniva per niente, ne voleva appena Simona per mettersi in mezzo al latte e cosa vendeva? E mi pigliavo il cazzo di le cialde che costano un sacco di... non saranno. Ma cosa stai dicendo, Antonio? Ma cosa si può vedere? Capsule non costa neanche tanto. Ma tu dire che ti credi di risparmiare con una caffettiera? Mica nella caffettiera ce ne fanno di caffè. Invece quella sono misurate e sta andando. Cioè, ma sei sicuro che hai provato? No, la capsule non vogliono tagliate. Devi mettere così intere. Vai, e lui ti fa il caffè come deve fare. Io non so queste cose, siamo anni e anni che ce l'abbiamo. E lo sto dicendo. Me l'ha data Giovanna, me l'ha prestata Giovanna. Quella è la barra famosa, hai capito? Quella che vengono giù a Pedanieta. Siccome non vanno bene per Simona. Perché lo sai che Simona c'ha il problema, cazzo, che l'agita, quindi ho dovuto prendere in pratica le cialde, quelle di Rosfin, quelle celesti che vendono, e ho dovuto in pratica tagliare il contorno. Una volta che taglio il contorno io, ce li infilo all'interno, hai capito? E siccome lei ne beve appena di caffè in mezzo al latte, chi me lo va a dire, va, secondo te, anche se non costano molto? Ma poi sono diventato tutto il giorno. Ma cosa cazzo di intende? Ho detto, non mi serve, perché ho simulato a un certo punto, sto ripigliando, ho detto, con queste cialde, ne consumo neanche la metà, addirittura, non sono dato, ma con un quarto, perché ne vuole appena, guarda, per la pena di caffè e poi tutto il resto, tipo cappuccino, capito? Quello che volevo dire? La capsula tagliata non l'avevo mai fatta, era buonia. Schiacciavo e andavo al caffè. No, non l'avevo mai fatto di chi si gozzi io. Cioè... Ma purtroppo io mi devo notare, cosa devo fare secondo te? Lo sai che lei c'è il problema, no? Se pigli il caffè si prende mezzo pacco di Lexotan, quindi a un certo punto cosa facevo la caffettiera, mettevo una cannettina di caffè e gli mettevo un po' di latte, è la stessa indicazione. Era un bacio. Molto bene. Sempre ho detto guarda che detto, ti fa male, ha detto sì, ma non lo prendere più di questa cosa qua, e ti sono una ricetta che ti solleva la pressione, ho detto. Poi c'è ragione, c'ho il cuore, c'è a mille, c'ho. E allora ho detto, cosa cazzo te fai? Ho detto, scusa, è dalla colazione così, ho detto. Vai, a un certo punto ho detto, ti prendi una brioche, quello che era la pasta, ma fa la colazione, poi ho detto prendere il caffè con la con cosa, un cappuccino da o qua di fronte, oppure detto da qua sotto casa, già lo sai anche tu, da Sonia, che ti fa male, gli ho detto, non ti può venire un infarto. No, se Deck è Deck non fa niente, no. Se Deck uno e Deck l'altro, Cioè non può farti male, scusa, Non è che quello che ti fa il bar, se lo vuoi Deck, è Deck, punto. E lo paghi pure per la pena di più. Sì, ma sono due cose diverse, non abbiamo gli stessi problemi, capito? Lei purtroppo ha avuto una trombosi, noi no, grazie a Dio. Noi la trombosi abbiamo il pisello, non sai che sfoga il pisello, ma lei purtroppo ha avuto una trombosi. Ma cosa intendi? A un certo punto, quando si gonfiano, si solleva la pressione, si gonfiano le vene, la carotide. Ma bisogna si gonfia. Capito? Tutto lì. Il rischio di cosa? Di ictus, tutto quello che ti voglio dire è quello lì. Però tu vedi, se decchi uno e decchi l'altro, cioè non è che la cosa non ciambano. Comunque non ho capito quello dell'uccello io. Guarda, io il deck, quello dello sfink, l'ho provato nella caffettiera, ma ha giubito, la verità, una caffettiera intera non mi ha fatto nulla, anzi mi ha fatto addrizzare il pisello, se lo vuoi sapere, tutta la notte, lo sai che il caffè è... per far sollevare l'attrezzo, quindi se non lo sai provalo. Qua è sempre sollevato, poi ce l'ho sempre ammuticato. Cosa mi consigli, il caffè deck? Sono affumigato io, domani. Sto succedendo, guarda, sono ciclone. Tu prova il caffè deck. E tu? Se no, te la mattina te la alzi, perché ti alzi con questa cosa, cazzo, nei mutandoni, cazzo, a un certo punto o dimetti questo, se non sei a posto. Ma cosa c'è di te? Oggi tu a me, cosa metti tu? Il tuo nome è ammuticato, cosa mi consigli? Cosa cazzo comprendi? Ascolta quando parla la gente, io parlo di me, non sto dicendo a te, non viene tu affumicato, mi piace tu è ammuticato. Ah, oh, vabbè, ho capito male, scusa, calma, te! Pirocca. Senti che molte volte sei tu che capisci male, cazzo, vabbè, non so parlare, ma cazzo, cosa vuoi tra affumicato con ammuticato? Sono due cose diverse. Ma pure affumicato virai. E allora, se ci vuoi di molto tra un gol, tra la pasta da affumicata. Oh, carinale, guarda. Allora, salsiccia, dai, andiamo. Parami che cazzo, andiamo, salsiccia, amiche, parami che. Ma salsiccia a voi? No, sto parlando con la roba sopra i capelli. Quando veniva al circo una volta, cara, io parlo vecchio, che cosa, cosa parli vecchio. No, un giorno mi voleva vendere in via Roma, ti giuro. Forse che lavoro era? Aspetta, delle macinette mi voleva. Io te le compagno un paio di macinette, il nostro di Gesù Cristo, della Madonna, mi sembra di occupare la mia vita, ogni tanto mi inganno, io quanto le do, e muovo ti inganno, io, a me la compagno di Gesù. Cosa dice, vai, cocca, arrivai. No, una persona, alla fine, una persona buona, cioè, no, si fa i suoi soldi e no, non va a rompere è scatto da nessuno, non è di chi è. Ma lo so, mica si sto dicendo niente, che mancherebbe, anzi, mi fa ridere più che altro, perché lui c'è talmente veloce, e a volte neanche si capisce quello, ciò che dice, capito? Scappa, e io fatto così, cosa vuoi fa? Però è bravo, va, poverino. Ah, quello sì, sono un becco, guarda, no, non lo vedo. Qualche giorno, speriamo bene che eliminino questo problema del Covid. Mi invito qua a cosa, a pranzo, a cena, e ci divertiamo. Almeno ci fa compagnia, poveraccio, ci fa ridere. Scappa, e lui vinta a casa tua. E perché no? Accidenti. A me, sai quante volte mi ha accompagnato a casa? Mi sembrava, guarda, io non sono mai fidato, perché di solito lui quando esce beve tutto il giorno. Beh, intanto mi ha accompagnato tranquillo a casa, mi ha accompagnato. Davvero, ti giuro. È un tipo perfetta. Ti accompagno. Si dice guarda non ti posso accompagnare perché sono fuso, dice no guarda stasera non mi chiede niente, lo dice in faccia. Qual dice la cazzo dentro a un fabbro, stare di quella mola, sargenti, a me non mi rompere così già. Io lo so, vabbè. Sarà ventolina, sarà già rimasta. E cosa io? La ventolina sta un po' rompendo, ma non fa niente. Guarda, non ti posso attaccare all'altro alimentatore, la verità, perché è peggio, Luca, quindi fai finta di questo, fai finta di nulla, perché se attacco l'altro alimentatore è peggio. Quello grande, anzi con quello senti l'alternata. Forse questa bassa è l'amplificazione un po'. Sono anche l'elicottero, lo intendi di voi? Intanto lo senti lo stesso a te. Ma lo vedi che lo senti lo stesso? Di meno, ma molto di meno. Prima non è fastidioso, vero Cla? Io sentivo l'elicottero, boh, pensavo che era qua sopra la testa. Magari. Ciao Claudio, saluto anche a te. Buonasera a tutti, buonasera. Hai aperto su, lo sai, sì. Come, non ho capito. Che hai riaperto sopra. Hai riaperto sopra. Sì, Mario Manca ha riaperto la preghiera. Il ciclo è aperto a mezzanotte di sabato e domenica. Ma no, tutti non ormai 90 anni mi sono ritirato dai circoli del bar, non me la tutti brutti, manco ballate e camera, me ne Maria Manca, e noi di Giovannino Pioli, forza amici di Ribiazzi. Lo conosco già. L'ho saputo avanti sabato, per esattezza, perché io pensavo, l'ho visto, mi ha salutato, è venuto di qua, mi ha salutato, ciao Antonio come stai? Oh, sto bene. Perché è salito sopra? Ma non sapevo che rimaneva fino a mezzanotte aperto. E dice, guarda, ma cazzo, sto fino a mezzanotte aperto. Fino a mezzanotte aperto. E i carabinieri non ci sono mai passati. Lui ci rimane aperto sino a quell'ora. Vabbè, faccia quello che vuole, tanto è casa sua lì, quindi non lo so. Va bene, beh, sono entrato a spegnere la radio, vi ho sentito, sono entrato a salutarvi. Buonanotte a tutti, vado a vedere nella TV, ciao. Ciao, ci sentiamo le prossime. Ciao, Antonello, ciao Luca, ci sentiamo le prossime, ciao. Ciao, Cla, buonanotte. Ciao, Cla, te tanto buonanotte. Ciao, già lo conosco io, Edo. Lo conosco bene a lui. Quindi da noi a pigliarsi la bombola, burro. Sì, è aperto il sabato, guarda. Il sabato notte, fino a mezzanotte è aperto. Figurati tu. Ci dà ciappa nei, per non dare niente, non tanto. Tutti i giorni, tutti i sabati è aperto, quando mi hanno detto. Ciappa, sta rischiando a volte che qualcuno gli faccia la spia. Capito? Ah, boh, io ho saputo, mi sembra strano, sono arrivate al circolo, dice su, a che ora? A mezzanotte, ha detto, ma sta scherzando, ha detto, notte mi alzo bevendo. Meglio per voi, ho detto. Sai perché gli va bene lì? Perché non c'è nessuno, un po' così. Se lo lascia dove l'abbiamo fatto la IP, l'abbiamo fatto già subito. Sì, è già fatto, non ti preoccupare, non fa niente a nessuno. Ma secondo te non salgono lì a bere gratis? Lo so, mi ho giocato tipo quello, un fiume a me. Lo conosco bene. Sto succedendo io. Salgo la bella gratis lì. Io lo conosco da più di tempo, ma almeno una ventina d'anni. E tu figurati quando i bambini erano piccoli, che Marco era piccolino, il figlio, quello che è morto, poi anche la figlia lo stesso, salivano lì, le pattuglie tutti i giorni, si davano il capito il cambio per poter entrare. Quando li chiamavano, siamo impegnati, stiamo facendo il posto del blocco, hai capito? Poi quando uscivano fuori, il primo imbecille che trovavano, che usciva dal circolo, caro track, maletta, hai capito? Io qui non lo so come è, ma una persona che ci sa fare, si batte giù e amico di tutti, capito? Ecco perché non vanno a rompere le scatole, però bisogna stare attenti sempre. Adesso lo so quello, infatti, lo so, non gli succede niente, anzi meglio per lui. Gli hanno salvato anche il culo quella volta che gli hanno spalato, quindi figurati tu, è stato fortunato. Quindi c'è una cosa in più lui, conosce parecchia gente, quindi gli va bene, mi era, tanto per non fare nome, mi è la stessa cosa di quello qua sotto, tale uguale, hai capito? Che non gli fa un tubo nessuno, fa fare quello che vuole, c'ha gli amici, hai capito? E chi lo tocca quello? Non lo tocca nessuno, ma quei ladri. Chiappa, e già lo sai, io sono tirato da uno, sì, anni fa, che era pure in diretta al circolo. Lo so, c'ero io due ore prima, hai capito? Erano due tipi di nuoro, prima sono andati lì verso le 11:30, cosa del genere, a controllare e tutto, dopodiché sono entrati a fargli la rapina, solo che non si aspettavano che lui doveva nella casa appena più giù, ha preso lui, ha visto questa cosa qui, gli ha preso e li ha tirati. Sì, ma è bene che uno l'ha pizzicato, non mi ricordo male adesso com'è andata. Una brava persona, però cioè, non lo devi stuzzicare. Uno l'ha pizzicato e l'altro, vabbè, sono tutti in galera, tutti e due, la verità. Per il momento è tranquillo, a quanto so io gli hanno promesso quando uscivano fuori e gli facevano la pelle, perché erano tutti e due di nuovo, hai capito? Tutto lì. Lo so. Però è giusto che la pelle, cioè che doveva pure a casa mia, appena pure, ma sto scherzando. Lui, secondo cosa hai combinato, qui sì, per rimanere una vita in Chivi. La galera è galera, già lo sai, non è sempre che va così, hai visto? Parecchie volte il giudice dice no, a posto fatele fare 20 anni te ne faccio fare 5, 6, o limite te ne faccio fare resti domiciliari. E purtroppo la giustizia è così, dipende dal giudice. Ciao. Già una persona tranquilla, gli viene sempre tranquillo, ma si è pigliato una di sei macchine in mano, si è pigliato, Io non ci ho mai capito niente cosa sia successo. Mi hanno detto incidente, è vero? Allora, ha avuto un incidente il giorno del come si dice? Sassa riposatore si è presa a testa. Il figlio è uscito senza patente e cosa del genere. Lì dalla come si dice, dall'incrocio per Platamora, eccetera, eccetera, per Porottolo, e se la ribigliato in pieno, perché non l'ho visto, c'era la ribalta, eccetera, eccetera. Io una cosa del genere sapevo io. Lo sto dicendo io. Purtroppo Marco ci ha messo le penne, cazzo, quella notte lì, è voluto uscire e mi ci ha messo le penne. Ma chi? Quello che va a San Gavino? Figlio sì, quello che è nato lì a San Gavino, posso dire, vabbè, non è che è nato a San Gavino, si è fatto un giro a Patamona, dopodiché quando è uscito dall'incrocio lì, dalla Budi Budi, al come si chiama? Come diavolo è? E potuto essere l'anibiato in pieno con la macchina di ottava per esattezza, e in pratica si è scontrata con un'amica mia cugina e mia cugina, hai capito? Di ottava, mia cugina è riuscita proprio, meno male, è tranquilla, non è morta, è tanto meno l'altra, però è rimasta scioccata mia cugina. Può succedere, non ha pigliato più macchina. No, infatti non ha pigliato più macchina, proprio è rimasta scioccata lì. Da quella notte lì, niente da fare. Se tu vedi la palla ce l'ha a me. Mario lì ce l'ha ancora lì, ce l'ha a me. Vicino, attaccato al circolo ce l'ha. L'ho vista, ne ho staccato l'antenna, c'era la terra della baracchina addirittura ancora. L'avevo fatta staccare, c'era la Tugo 2001, con il baracchino, l'FM606 addirittura. E chi ce l'aveva? Mario, il figlio, c'è in pratica la macchina del padre, ce l'aveva il figlio. Certo. Ora più lo baracchino. Sì, il baracchino ce l'ha, gli ho regalato io baracchino, mi ha regalato il baracchino anche l'antenna. La mia 27 l'ho regalato. E ce l'ha lì al circolo, ce l'ha. Non so se c'era Bu, dove l'ha messa, cosa ne so. Sono da parecchio tempo io che non lo vedo, perché avevo avuto parole per due portati di PMR. Ah, così è. E appunto per quello, quindi a un certo punto ho detto no, dico io la roba l'ho pagata, se se la vuoi ho detto te la posso prestare, ma a regalartela no, a casino, ho detto, se permetti, non me la pago niente, dice allora me la compro, la compra te, ho detto, fa quello che vuoi, fatemi non rompere la barra meglio, ho detto. E così ho fatto. Problematica. Oddio, già non muore di fame, già non l'avevi di là. Sì, ah, voglia ne cassato soldi. L'assicurazione voglia ha avuto tutto, la verità. Ha fatto i soldi, ma ha avuto tutto. È stato fortunato. Certo, no, ma vabbè, ma io tu già c'ho di avere perché lavorava, quindi no, non c'è problema. Sì, vabbè, lavorava, non lavorava più quasi niente, comunque sia. I soldi di assicurazione mi hanno dato parecchio, quindi figurati, mi è andata bene. Sì, già sta bene lui, ragazzo, già c'ho di avere. Luca, ci sei? Sparito, Luca. Luca non c'è più, ma sta bene già, oh. Tanto è, sta di me, si s'abbassona. Sì, meglio per lui, sono contento per lui, più che altro, allora per la vecchiaia, più che altro. Aspetta 2 secondi, sta arrivando subito. Cappa, sono io troppo chiuso. Ok, sono entrato. Cosa tu è? Sono entrato, detto, sono qua. Cappa, ma tu hai già comprato i due 103 della ZG, strumento e vametro e come cavolo si chiama, strumento per la stazionaria, la rosmetro, ma funziona di un bene che non ti dico. Non sei contento, meglio così, aspetta che cazzo, mi sta ossessionando questo cazzo, è diventato. Senti che bello cazzo, capiamo di sopra, capiamo di sotto, si sente? Guarda, ma funziona bene veramente, no, guarda, non credevo che ci ha avuto culo. Ma già va bene, voglia, anzi io mi devo comprare adesso della roba, fra poco, e mi devo pigliare anche il motorino, quindi figurati tu. Adesso devo fare la domanda, fra 15-20 giorni, un mese, quello che è, e piglio il motorino. Motorino? Motorino, per il momento mi piglio il motorino. Quello può poter uscire, a farmi la spesa. Dopodiché mi piglio la macchinetta, quella a tre ruote, quella che, come si dice, che ho visto l'altro giorno, l'UFO, a patto, col coso, gli prendo quello e mi faccio la spesa. Ah, tu stai parlando sempre di quelli che si guidano senza la patente, perché se prende il 50 ci vuole la patente, ci vuole la M. No, senza patente me lo prendo, usami la frutta a me, usa la patente, a questa età, ma stai scherzando, cosa me ne faccio, già ormai 60 anni, cazzo, è giusto, cosa faccio, mi piglio il patentino per il coso per 5 anni, non esiste, no? Quindi a un certo punto mi prendo, c'è quell'UFO che ho visto, mi sembra che l'ho visto su canale 5, se non ricordo male, è coperto, non prendi acqua, non prendi niente e sei tranquillo, e poi mi prendo quello, il ciclomotore normale, sempre elettrico, almeno ne ho due, con uno faccio la spesa e con l'altro me ne esco in giro con Simona. Capo, a me non puoi bussare in due, me. Sì, è fatto per due, è omologato per due, te lo sto dicendo io. Se no non avrei preso, non ti preoccupare. Ma perché quando eri giovane non ti servi la tua patente? Ma cosa me ne frega a me, cazzo? Poi c'ho 60 anni, me. Ma ce la faccio a prendere la patente a 60 anni e me la ritiri fra 5 anni? Ma stai scherzando? È una presa per il culo, cazzo. Non esiste, no? Non mi interessa di niente ormai. Mi piglio quella roba lì, sono tranquillo, intanto sono invalido, chi se ne frega? Sto facendo la domanda di aggravamento, pago l'IVA al 4%, quindi quanto credi che mi venga una cosa del genere, una cazzata mi viene, meno della macchina 50, sta tranquillo, mi conservo anche il soldi, io sono l'altro. Capa, no, però ti stavo dicendo, quando eri giovane, perché non te l'hai presa? Perché quando ero giovane tombavo troppo, quindi spendevo troppo, il discorso è quello. Vabbè, facevo un sacrificio e la prendevi. No, 50-50 era 50, se permetti. A un certo punto, prima bisogna lubrificare l'aggeggio, dopodiché c'è la biglietta, intanto è arrivata a 60 anni ormai, uno sa dove la prende l'aggeggio, a cosa la prende, come all'armadio. Vabbè, mi ha detto del trattore che c'era gente della tua età che sono andati a prendersi la patente. Sì, e cosa se ne fanno? 5 anni, ma vai, sono soldi sprecati, insomma, sono tutti scemi, insomma, aiuta, sono soldi sprecati, ormai lo sai che tu la patente mia, fra poco esco con le macchine elettriche, non fai altro che prenditi la macchina, ci ascolta, accompagnami per il produttore, se, dove? Al numero 8, quindi ti accompagna dentro, e non c'è bisogno di patente, niente, non ti preoccupare. dico sono cambiatemi, non è più come prima, anzi lo stanno già facendo in Cina, è che noi siamo ritardati di testa, più che altro. E se no a quest'ora, lo sai, la benzina dove c'era uscita, a casino c'era uscita la benzina. No, che la patente mi fa il posta per guidare certi veicoli, non è cuscinato. Fa tutto da solo il computer, poi ci sono i satelliti, tu imposti come si chiama lui ti accompagna direttamente dove devi andare, poi ti accompagna dove vuoi, ma ti avevo la stessa di qualcosa, quindi non ti preoccupare, non è più come prima, no. A futtidini, non ce n'è più, tra poco è come usare, per dire, le bombole del gas, altri 5 anni, guarda, ti do, una volta fatto il coso del gas, boh, ciao, c'è il gas in città, a meno che uno non si faccia saltare in aria, quello che, tra poco sarà un bel casino, sarà, già abbiamo questi problemi del Covid, figurati tu, Una cosa, che è un business qua in Sardegna. Dopo un po' di tempo. Ci sentiamo domani, ok, dai, che mi sono dormendo. Ciao, buonanotte a tutti gli ascoltoni, ciao. Ciao, ci sentiamo. Andrà bene, ci vediamo domani sera, limite, forse, non lo so perché sto facendo documentazioni per la questione della pensione mia, quindi a un certo punto il baracchino proprio non me ne affronto, prima me ne frega di tirarmi i soldi, poi si vedrà il baracchino a un certo punto. Tanto mi è arrivata la lettera che me l'hanno accettata, adesso bisogna fare la visita, quindi vediamo un pochettino, speriamo bene, cosa ti posso dire? No, che te la diano, quando ti cercando, quando? Sì, ci vado guasto, ci vado, capito? Dico, mi ha guastato, cazzo, quel CBD mi ha guastato, cazzo, mi ha messo sotto in macchina, ha preso, se ne è fuggito, cazzo, dico, a un certo punto. Chi è? Falcone, dico. Oia, dai, buono, cantone. Ci sentiamo. Sì, d'accordo, comunque adesso non dire non le senti, giusto? Siamo a posto, no? La modulazione è perfetta, non dire non le senti più. Cappa, è perfettissima, buona è la mia modulazione. Perfetta, non ti preoccupare, sei una bomba, sì, veramente una bomba. Cappa, dai. 9.30 il segnale. Prova. 1.3 prova. 9.30, la verità. Cappa, già andava, va. Ciao, dai, buonanotte, ci sentiamo. Sì, ciao, buonanotte a tutti. Statevi bene a tutti, buonanotte. Alla prossima, quando capiterà, non c'è problema. Ciao.